Buongiorno e benvenuti a Luogo Comune, la trasmissione radiofonica che analizza i luoghi comuni, motti, aneddoti e modi di dire per poterli confermare o smentire con l'aiuto di un ospite. E in studio a tenervi compagnia per la prossima mezz'ora Valentino De Luca. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta e ci sono io che parlo in radio, o su Twitter digitando Luogo C, chiocciola Luogo C, oppure scriveteci una mail a luogocomune.radio@gmail.com. Il luogo comune che tratteremo oggi è immigrazione, l'Europa deve intervenire, e ne parliamo in collegamento telefonico con Fulvio Vassallo, paleologo, avvocato e docente di diritto di asilo presso l'Università di Palermo. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Alle 5 del mattino del 3 ottobre scorso, un'imbarcazione contenente circa 500 persone, per lo più di nazionalità africana, è naufragata al largo di Lampedusa provocando una strage. Partiti da Misurata in Libia, i futuri naufraghi hanno pagato circa 1.500 dollari a testa per poter affrontare questo viaggio della speranza, finito in tragedia, come sappiamo dalle cronache recenti, per colpa di una coperta bruciata per segnalare la propria posizione. Le fiamme divampate hanno spaventato le persone sulla barca, che si sono agitate e hanno provocando così il rovesciamento del mezzo. Il risultato è stato di circa 300 vittime fino adesso ed un mare infinito di accuse e polemiche. Ovviamente al di là delle accuse e delle polemiche di questi giorni, che tra l'altro ci arriveremo, perché ho fatto questo preambolo con un fatto di cronaca di questi giorni, perché ovviamente, professore, è così esemplificativo per una situazione che si sta protraendo ormai da diversi anni, ovvero quella di immigrazione soprattutto dalle coste dell'Africa. Adesso però con lei, proprio perché è professore, insomma, è docente di diritto di asilo, volevo cominciare da una domanda in particolare, ovvero: io sono un immigrato appena sbarcato sulle coste di Lampedusa, ma faccia lei un po' sulle coste italiane. Quale situazione normativa trovo ad accogliermi? Ma innanzitutto trovo una situazione normativa che va rapportata, oltre che alle leggi, alle prassi che vengono applicate dalla polizia in frontiera. Quindi generalmente vengo trattenuto in un centro informale, senza poter comunicare con l'esterno, senza avvocati, senza mediatori, spesso senza interpreti e senza medici. Questa è una situazione che si verifica in molte strutture d'ingresso. Poi vorrei un attimo chiarire che non si tratta di un fenomeno di massa, che non c'è un'invasione, che non è un'emergenza, perché purtroppo troppo spesso sui mezzi di informazione circola il luogo comune che ci sia una invasione prossima avventura. Sono arrivati 6.000 siriani, in tutto abbiamo avuto l'arrivo fino in quest'anno di 30.000 persone. Un sistema d'accoglienza in un qualunque paese civile avrebbe fatto fronte a questa situazione, invece purtroppo abbiamo normative e sistemi di accoglienza molto arretrati, si è visto ancora in questi giorni a Lampedusa, e poi c'è anche da dire che siccome l'unico modo per arrivare è l'ingresso irregolare, anche per persone che hanno diritto di chiedere e ottenere asilo, che è un diritto anche costituzionale, e succede che purtroppo in mano agli scafisti queste persone poi vengono condotte su imbarcazioni fatiscenti e poi, malgrado l'impegno della Marina, non si riesca a salvarli tutti, come è successo in questo caso. Quindi io vorrei che, siccome i mezzi di informazione troppo spesso focalizzano solo il momento dello sbarco e non si vede quello che c'è prima, la storia di queste persone prima che partano e quello che poi viene dopo quando arrivano in Italia, direi che trovano un quadro normativo a mio avviso inadeguato, ma anche la Corte Costituzionale in questi anni è intervenuta in modo abbastanza pesante sulla legge sull'immigrazione, che poi era turco-napolitana come modificata nel 2002 dalla Bossi-Fini, e quindi dei pacchetti sicurezza di Maroni nel 2009. La Corte Costituzionale ha fatto un po' d'ordine, ma ancora è una legge veramente da rivedere sostanzialmente. Ma quindi, professore, appunto, entriamo un pochettino nello specifico, magari per alcuni dei nostri radioascoltatori che sono a digiuno di legge. Il quadro normativo quindi sarebbe la turco-napolitano, poi modificata... la Bossi Fini, sì, appunto. 2002, sì. Ok, la Bossi Fini del 2002. E poi i pacchetti sicurezza che sono stati introdotti da Maroni nel 2009 e nel 2011. Ricordo per esempio che il reato di immigrazione clandestina, che è un reato contravvenzionale, composta cioè il pagamento soltanto di un'ammenda di 5.000 euro, che poi naturalmente nessuno può pagare perché nessuno arriva con questa disponibilità addosso, è un reato che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale nel 2010, ma la Corte Costituzionale ha anche dato alle procure e alla polizia delle direzioni precise per non incriminare tutti coloro che arrivano, soprattutto a seguito di eventi di soccorso come quelli che si sono verificati in questi ultimi giorni. Ricordo anche i morti di Scicli pochi giorni prima della strage di Lampedusa e i morti alla playa di Catania, sbarchi che sono costati la vita a molte persone e che però poi hanno visto la incriminazione di quelli che si erano salvati. E questa cosa certamente contribuisce anche poi alle fughe, perché le persone si buttano in acqua prima possibile, spesso dove non si tocca, e quindi se lo sanno nuotare annegano, oppure le persone fuggono, cercano di fuggire nella clandestinità non appena sono nelle condizioni di farlo, per non incorrere nel reato, nel rilievo delle impronte digitali e quindi poi per non avere più la possibilità in questi casi di presentare una richiesta di asilo in un altro dei paesi europei nei quali sono diretti, perché c'è anche da dire che la maggior parte di queste persone che arrivano in quest'ultimo periodo, eritrei e siriani soprattutto, non hanno come meta l'Italia, ma hanno come meta altri paesi europei nei quali si trovano i loro parenti. In questo momento sono arrivati a Palermo e in Sicilia parenti che già stavano in Norvegia, in Svezia, in Germania, di eritrei, che ricercano, andranno a Lampedusa, andranno a Catania, andranno dove ci sono morti, e ce ne sono tanti per ora, perché le stragi sono state diverse in quest'ultimo periodo, anche se se ne è parlato poco, soltanto quest'ultima ha in qualche modo attirato maggiore attenzione sui mezzi di informazione, e quindi queste persone sono già in Nord Europa, vengono qui a cercare i loro morti. Se i loro parenti fossero sopravvissuti non si sarebbero certamente fermati in Italia, ma sarebbero andati a ricongiungersi con la loro famiglia nel Nord Europa. Senta, ma a me pare, studiando un pochino, preparandomi questa intervista con lei, mi pare che la Costituzione e invece le leggi che regolano attualmente l'immigrazione nel nostro paese siano, ovviamente io mi esprimo non in maniera insomma secondo giurisprudenza e mi scuserà, ecco, però siano un pochino in contrasto, per così dire, nel senso che mi spiego subito. Mentre la Costituzione ha una visione della persona che chiede qualcosa dello straniero, ovviamente, che chiede qualcosa al nostro paese perché in condizione di difficoltà e comunque di bisogno, e riconosce un oggettivo dovere di aiuto da parte della nostra nazione, poi all'atto pratico, con le leggi che praticamente devono regolare il destino di questi uomini, quindi la Bossi Fini, poi la legge del pacchetto sicurezza come lei ricordava prima, l'immigrato viene visto, non dico che si parte da una base di sospetto, ma sicuramente, siccome tutti noi sappiamo quale fu non solo i governi, ma proprio anche il clima che si sentiva e da cui vennero generate queste leggi, quindi il problema che siamo invasi, come lei giustamente diceva prima, i problemi, si ricorda, i rumeni che ci vengono a rubare in villa, i 2 milioni di immigrati pronti in Libia per raggiungere l'Italia, sì. Dal 2009 al 2011 questo allarme si è ripetuto più volte, 2 milioni sono arrivati bravissimo. Al massimo in un anno 30.000, e questi sono appunto queste leggi, questa, ripeto, è la mia sensazione, sono figlie di questo clima che si respirava in Italia in quegli anni, in un recentissimo passato. Lei può confermarmi questa differenza di visione? Il testo unico sull'immigrazione non riguarda l'asilo, però tutte le persone che entrano per chiedere asilo entrano irregolarmente, non hanno la possibilità di entrare, come noi chiediamo peraltro, di entrare con un visto d'ingresso, quindi si parla di flussi misti, cioè di richiedenti asilo e migranti economici. Negli ultimi tempi si osserva che la percentuale dei potenziali richiedenti asilo è molto molto più alta, perché basta ricordare i paesi dai quali arrivano queste persone, Somalia, Eritrea, Etiopia, Siria, sono tutti i paesi dai quali arrivano persone che hanno il diritto di chiedere asilo. Ora, in realtà la disciplina legale del diritto d'asilo non è stata mai in Italia attuazione dell'articolo 10 della Costituzione come avrebbe dovuto essere, ma a parte una fase nella quale la giurisprudenza tra il 97 e il 2002 ha fatto un'applicazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione con sentenze molto coraggiose, e dopo, soprattutto via via che l'Unione Europea ha cominciato a adottare direttive in questa materia, si è conformata alle direttive dell'Unione Europea. E quindi la portata del diritto di asilo costituzionale, che è più ampia nella nostra, diciamo, impostazione costituzionale, si è ristretta tenendo conto delle indicazioni che provenivano dall'Europa, perché l'Europa complessivamente non ha un atteggiamento favorevole nei confronti dei richiedenti asilo. Ci sono dei paesi nei quali il welfare è più elevato, nei quali si garantisce un alloggio, una casa che non si garantisce in Italia, nei quali c'è più anche possibilità di lavoro, perché l'economia è un'economia che tira, a differenza dell'economia italiana, e quindi per questo i migranti che chiedono asilo vanno verso questi paesi, oltre perché già hanno dei parenti o dei nuclei già insediati. Ma l'Europa complessivamente non ha una posizione favorevole nei confronti dei richiedenti, tant'è che il numero di richiedenti asilo in Europa è diminuito negli anni. Come si mantiene stabile grossomodo in Italia, abbiamo avuto un picco nel 2011, poi un crollo nel 2010 e un aumento nel 2012 e un aumento nel 2013, ma anche in Italia abbiamo da 15 a 20, 25 mila richieste di asilo all'anno, dico 25 mila forse quest'anno, ma l'anno scorso erano 16 mila, la Germania ne ha avute 55 mila, molte di più di quante ne ha avute l'Italia richieste di asilo. E anche Francia, paesi grandi, paesi europei hanno avuto molte più richieste di asilo, perché in realtà poi in Italia molti non vogliono fermarsi. Ma in questa visione negativa dell'immigrato che richiede asilo, diciamo c'è anche una in questo si è allineata quindi l'Italia all'Europa? Sì, si è allineata con una aggravante, che altri paesi europei comunque hanno procedure molto dure. Addirittura in qualche paese, come l'Inghilterra, c'è anche la detenzione amministrativa, cioè si rimane chiusi in prigione per alcuni mesi, però una volta che il diritto viene riconosciuto ci sono delle possibilità di integrazione, di inserimento anche lavorativo, di accoglienza e di assistenza sanitaria, che in Italia per molti sono un miraggio. Ci sono delle sentenze di tribunali tedeschi che hanno sospeso trasferimenti di richiedenti asilo che erano passati dall'Italia, in base al regolamento Dublino avrebbero dovuto essere riportati in Italia, e ci sono stati dei giudici in Germania che, tenendo conto delle carenze sistematiche del nostro sistema di accoglienza, hanno bloccato questi trasferimenti in Italia e hanno permesso che queste persone restassero in Germania. Queste sono sentenze recenti che non fanno una norma, ma tuttavia confermano come anche a livello internazionale sia conosciuto lo stato di inadeguatezza del nostro sistema di accoglienza. D'altra parte le immagini che sono arrivate da Lampedusa sono eclatanti e non credo che si possano ignorare tanto facilmente, con persone lasciate sotto la pioggia dopo quello che hanno vissuto per giorni e giorni, senza che si riuscisse neanche a montare una tenda all'interno di un centro che è gestito dal Ministero dell'Interno. Professor Paleologo, che cosa fa di un uomo un clandestino? Proprio dal punto di vista legale, che lo status di clandestino, che cosa vuol dire? Quali implicazioni ha? La legge conosce il reato di clandestinità, però ci sono moltissimi immigrati irregolari, si possono definire meglio così, anche perché a livello giornalistico la Carta di Roma vieta di parlare di clandestini, laddove la legge non prevede questo tipo di dizione, se non per un'ipotesi specifica che è reato di clandestinità. Che sicuramente è negativa. sicuramente negativa. Esattamente, già contiene uno stigma negativo e diciamo si può diventare anche irregolare dopo aver avuto un permesso di soggiorno. Per effetto della crisi economica, per esempio, ci sono centinaia, migliaia di persone che hanno perso il contratto di lavoro e quindi hanno perso anche il permesso di soggiorno, perché una delle cose molto negative delle quali oggi si chiede l'abrogazione della legge Bossi-Fini è che lega, è stata la legge Bossi-Fini ad accentuare questo legame, lega il permesso di soggiorno al contratto di lavoro, quindi chi è in Italia anche da 8, 9, 10 anni e perde il lavoro, se non trova un altro lavoro entro un anno perde anche il permesso di soggiorno, anche se ha moglie, figli nati in Italia, e questa è una cosa veramente inumana. Quindi è sempre sotto esame, cioè non diventa esatto. Mai uno di noi, non diventa mai uno della società. Poi se per questo è sempre sotto esame, perché nel 2009 poi è stato introdotto anche il permesso di soggiorno a punti, con l'accordo di integrazione e con varie prove che anche di conoscenza della lingua che in qualche modo possono incidere sulla regolarità del soggiorno. Però per fortuna da questo punto di vista c'è un'applicazione diciamo morbida e al momento non ci sono immigrati che hanno perso il permesso di soggiorno perché non conoscevano bene l'italiano, ma l'ispirazione era quella. Per fortuna nella prassi si è riusciti a evitare, anche con un forte impegno del volontariato, delle associazioni e con una crescente integrazione degli immigrati che comunque parlano la lingua italiana, si è meglio tante volte anche di tanti italiani che cercano invece di metterli ai margini, e devo dire che per fortuna questo aspetto negativo del pacchetto sicurezza Maroni del 2009 si è riuscito in qualche modo a neutralizzarlo, ma esistono tante norme nella legge Bossi-Fini, per esempio la legge Turco-Napolitano prevedeva la possibilità di entrare per ricerca di lavoro con la figura dello sponsor, del garante. No, qua bisogna invece già avere il lavoro. Mentre invece la legge Bossi-Fini del 2002 ha istituito come regola l'ingresso soltanto sulla base di un contratto di lavoro già esistente. Cosa ma, chi, del tutto ma scusi, teorica, ma chi glielo dovrebbe dare? Nel senso io sono qualcuno cittadino... che assume una persona che non conosce, che si rivolge all'ufficio del lavoro dove ci dovrebbe essere una lista e attingendo da questa lista trova il badante o trova il lavoratore domestico o trova diciamo l'operaio per la propria impresa, ma il 90% di immigrati oggi regolari in Italia è stata costretta a entrare irregolarmente proprio per la mancanza di un canale legale di ingresso. Qui parliamo di migranti economici, abbiamo cambiato argomento, non più di richiedenti asilo. Per i migranti economici mancano, come erano previsti dalla legge Turco-Napolitano del 98, dei canali legali di ingresso. Quindi hanno trovato lavoro dopo? Hanno trovato lavoro ovviamente quando erano irregolari, e poi con le sanatorie. La più grande sanatoria l'ha fatta la legge Bossi-Fini nel 2002, quando si sono regolarizzate più di 700.000 persone. E in pratica, avendo un rapporto di lavoro, avendo un domicilio, un'abitazione fissa, si è potuto negli anni passati, fino al 2008, ottenere una regolarizzazione. E oggi la maggior parte, anche il ministro Chienci, è entrata da irregolare e poi si è regolarizzata in un secondo momento. E queste persone quando diventeranno cittadini italiani? La legge sulla cittadinanza italiana è una delle più arretrate in Europa. Attualmente non soltanto ci vogliono 10 anni di soggiorno legale e un reddito molto elevato che pochi immigrati possono dimostrare di avere come busta paga, ma ci vuole anche una grossa discrezionalità da parte delle questure, che spesso respingono la richiesta di cittadinanza per motivi puramente formali o per rapporti da parte dei servizi di sicurezza circa l'appartenenza a questo o a quel partito politico della persona che chiede la cittadinanza nel nostro paese. Mi riferisco in particolare ai Tamil, che stanno incontrando crescenti difficoltà per il riconoscimento della cittadinanza, e quindi poi occorre un ricorso, occorre un avvocato, ma non tutti possono permettersi di fare ricorso, e quindi poi la cittadinanza rimane un miraggio, anche perché con la nostra legislazione, se non si dimostra un reddito molto elevato, non c'è nessuna speranza di ottenere la cittadinanza. Senta professore, arrivati sempre a questo momento della nostra trasmissione, io faccio una pausa musicale con un tema musicale, con una canzone che riguarda il luogo comune, però per quanto riguarda questa puntata, siccome riguarda un tema molto, molto vicino anche per i fatti di cronaca che sono successi proprio in questi giorni, vorrei più che una pausa musicale farle sentire una poesia di Pierpaolo Pasolini del 1964, che si chiama Profezia, letta da Tony Servillo, e dura un paio di minuti e poi ritorniamo così la commentiamo anche insieme. Uno dei tanti figli di figli scenderà da Algeri su navi a vela e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri sulle barche varate nei regni della fame. Porteranno con sé i bambini e il pane e il formaggio nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini sulle trireni rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a milioni, vestiti di stracci asiatici e di camici americani. Subito i calabresi diranno come malandrini a malandrini: ecco i vecchi fratelli coi figli e il pane e formaggio. Da Crotone o Palmi saliranno a Napoli e da lì a Barcellona, a Salonicco e a Marsiglia, nelle città della malavita. Anime e angeli, topi e pidocchi, col germe della storia antica, voleranno davanti alle villaie. Essi sempre umili, essi sempre deboli, essi sempre timidi, essi sempre infimi, essi sempre colpevoli, essi sempre sudditi, essi sempre piccoli, essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare, essi che vissero come assassini sottoterra, essi che vissero come banditi in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo, essi che si costruirono leggi fuori dalla legge, essi che si adattarono a un mondo sotto il mondo, essi che credettero in un Dio servo di Dio, essi che cantarono ai massacri dei re, essi che ballarono alle guerre borghesi, essi che pregarono alle lotte operaie, deponendo l'onestà delle religioni contadine, dimenticando l'onore della malavita, tradendo il candore dei popoli barbari, dietro ai loro alì dagli occhi azzurri, usciranno da sotto la terra per rapinare, saliranno dal fondo del mare per uccidere, scenderanno dall'alto del cielo per espropriare e per insegnare ai compagni operai la gioia della vita, per insegnare ai borghesi la gioia della libertà, per insegnare ai cristiani la gioia della morte. Distruggeranno Roma e sulle sue rovine deporranno il germe della storia antica. Poi, col Papa e ogni sacramento, andranno come zingari su verso l'ovest e il nord, con le bandiere rosse di Trotsky al vento. Rientriamo in studio dopo la pausa musicale, in realtà più che pausa musicale è stata la lettura della profezia di Pierpaolo Pasolini del 1964 per voce di Tony Servillo. Sempre Valentino De Luca dai microfoni di Radio Città Aperta per Luogo Comune. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello della Radio Città Aperta, di Radio Città Aperta, e ci sono io che parlo in radio, su Twitter @ Luogo C, oppure scrivetemi una mail per consigli, suggerimenti e anche, speriamo di no, critiche, luogocomune.radio@gmail.com. Il tema di oggi è immigrazione, l'Europa deve intervenire, e ne parlavamo con Fulvio Vassallo, paleologo, avvocato e docente di diritto di asilo presso l'Università di Palermo. Io vorrei che fosse chiaro che il fenomeno nel nostro paese che riguarda questi richiedenti asilo, queste persone che fuggono da guerre, da persecuzioni, un fenomeno che numericamente è estremamente ridotto rispetto alla spettacolarizzazione che si fa di Lampedusa e talvolta anche di altri luoghi di frontiera, quando ci sono fatti eclatanti come persone che annegano sulla spiaggia e i loro corpi vengono messi in fila magari a pochi metri dai bagnanti che fanno il bagno. Io vorrei mettere l'accento su questo, cioè i doveri di accoglienza non possono essere compressi dalla paura della crisi economica, dalla preoccupazione che queste persone vengano a rubarci qualcosa, perché purtroppo anche nelle reazioni che paure queste che, come dicevamo prima, hanno, hanno generato però proprio delle leggi o no? Ma al di là delle leggi che ormai hanno fatto il danno che hanno fatto, a me quello che spaventa è l'opinione pubblica, perché poi le leggi sono frutto dei partiti che catturano il consenso sulla base di determinate parole d'ordine, e l'opinione pubblica dà questo consenso e permette a questi partiti di governare. Le leggi hanno nomi e cognomi, corrispondono a periodi di governo nei quali sono prevalse delle linee sicuramente molto restrittive, se non di esclusione nei confronti di tutti gli immigrati, anche dei richiedenti asilo. In quest'ultimo periodo, al di là poi della, diciamo, ideologia che sta dietro le leggi, la carenza di risorse, gli effetti della crisi, i tagli della spending review, per esempio, hanno chiuso molte strutture di accoglienza che prima erano aperte. Oggi so che il Consiglio dei Ministri interverrà per i minori non accompagnati, anche loro hanno subito questi tagli e sono rimasti in condizioni di estremo abbandono, se non di dispersione. E però il nostro sistema è veramente rimasto molto molto indietro, quindi io spero che si raccolga anche l'appello dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che ha chiesto di chiudere luoghi invivibili come il centro di Lampedusa, che ha chiesto che l'Italia si doti di un sistema di accoglienza, di seconda accoglienza dignitoso, che non calpesti la dignità delle persone costringendole a condizioni igienico-sanitarie di promiscuità indegne per un essere umano. E l'ACNUR, le Nazioni Unite ci chiedono questo, l'Europa ci chiede di rispettare standard minimi di accoglienza. Credo che prima di chiedere qualcosa all'Europa dovremmo avere le carte in regola noi in Italia. Professore, spieghiamo un attimo per i nostri radioascoltatori, visto che lei si riferiva appunto a questi centri, visto che io so che per esperienza sua personale li ha visitati, i centri per, mi riferisco ai CIE, i centri per l'identificazione e l'espulsione, può spiegare che cosa sono, come nascono, cioè quindi a che cosa servono e sì, che condizioni ha trovato quando è andato a visitarli? Sì, noi abbiamo diverse categorie di centri per stranieri, anche qua purtroppo si fa troppo spesso confusione. Noi abbiamo i centri di identificazione ed espulsione, che servono per gli stranieri che in base agli accordi di riammissione, gli accordi bilaterali, si possono espellere. Ora tutti i siriani sono sicuramente espellibili, vanno invece in centri di prima accoglienza e soccorso o in centri di accoglienza per richiedenti asilo. Sono centri aperti o dovrebbero essere centri aperti, mentre i CIE, centri di identificazione ed espulsione, sono simili alle prigioni, dai quali si esce soltanto o per essere rimpatriati o se il rimpatrio non si può effettuare con un'intimazione a lasciare entro pochi giorni il territorio nazionale. In realtà tanto i centri di identificazione ed espulsione, che ormai sono soltanto 7 sui 12 originariamente aperti, perché gli altri sono stati chiusi anche a seguito delle proteste delle persone che erano dentro, e adesso spiegherò perché vengono queste proteste, come i centri di prima accoglienza e soccorso e i centri di accoglienza per richiedenti asilo, sono tutti in condizioni miserevoli, come è documentato da numerosi rapporti di diverse agenzie internazionali, da Amnesty International, ma anche Terre des Hommes, Medici per i diritti dell'uomo. Sono tantissime le organizzazioni che nel tempo hanno visitato queste strutture e le hanno tutte trovate in condizioni al di sotto degli standard richiesti, da diversi punti di vista, sia dal punto di vista igienico-sanitario che dal punto di vista della mancanza di qualunque mediazione o assistenza di carattere legale, che sarebbe necessaria in questi centri anche per rassicurare le persone ed evitare che vengano poi a cadere in preda alla disperazione, magari a rivoltarsi perché non sanno bene che gli succede. La situazione dei CIE, centri di identificazione ed esclusione, è particolarmente drammatica perché è dal 2009, al effetto del pacchetto sicurezza, e poi dal 2011 ancora di più, mentre prima si restava in queste strutture per 60 giorni e se non si era espulsi si veniva rimessi in libertà, adesso si può restare in queste strutture anche per 18 mesi, e quindi questo viene vissuto come una vera e propria pena, come fosse una pena carceraria, perché 18 mesi in un luogo chiuso significa una vera e propria una condanna. Ma professore, mi scusi, se non mi hai identificato nei primi 60 giorni, negli altri 16 mesi che cosa fai? Beh, ci sono delle proroghe, delle convalide, dei tentativi di identificazione che magari 4-5 volte implicano che le autorità di polizia si rivolgono a diversi consolati perché provvedono al riconoscimento. È chiaro che senza la collaborazione del consolato non è possibile nessun rimpatrio. Quindi soltanto con la collaborazione dei consolati e con gli accordi di riammissione è possibile effettuare rimpatri. Anche se mettessero la detenzione amministrativa a vita o la durata a 3 anni del trattenimento amministrativo, questa sarebbe soltanto una pena, ma non sarebbe una misura effettiva per garantire l'esecuzione dell'espulsione. Tanto che l'Unione Europea e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno detto all'Italia, nell'attuazione di una direttiva sui rimpatri che prevede anche il trattenimento amministrativo, che il trattenimento amministrativo nei centri non può essere finalizzato a se stesso, ma è funzionale soltanto all'esecuzione della misura dell'espulsione. La direttiva comunitaria del 2008 sui rimpatri dice che quando viene meno questa chance di espulsione dovrebbe essere rimessa in libertà la persona, ma questo aspetto della direttiva, questa norma europea in Italia non è stata tradotta in legge e quindi noi continuiamo ad avere persone che rimangono in queste strutture anche per 12-14 mesi. Aggiungo che poi in queste strutture negli ultimi tempi, siccome i posti sono anche molto pochi, prevalentemente ci finiscono persone che provengono dal carcere, che hanno già scontato la pena e vengono portati in questi posti prima di essere espulsi, e non persone invece che sono appena sbarcate, che generalmente o vengono rimpatriate subito come gli egiziani in base agli accordi di riammissione, se c'è appunto il governo del paese di origine che se li riprende, oppure appunto entrano nel circuito dell'accoglienza, seppure a livelli minimi nei quali è previsto in Italia. Professore, ma noi stiamo parlando ovviamente molto del caso italiano e va bene, ma per quanto riguarda il nostro luogo comune, ovvero l'Europa deve intervenire, la legislazione degli altri paesi, lei mi ha detto che in alcuni è addirittura più severa, ma anche gli altri conoscono appunto, gli altri paesi conoscono il CIE, gli altri paesi vedono, vedono gli immigrati di solito nei paesi, gli dico subito, le faccio qualche nome, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, pressa poco. Allora, in altri paesi c'è anche il reato di immigrazione clandestina, ma questo reato non viene applicato in modo automatico. In altri paesi c'è anche la detenzione amministrativa, ma dura generalmente meno di quanto dura in Italia. E in altri paesi c'è una legislazione sull'asilo che è più efficace sia per l'accesso alla procedura che per quanto riguarda gli standard di accoglienza. Anche se non si può generalizzare, abbiamo paesi che poi, penso per esempio all'Ungheria, penso alla Slovenia in Europa, che sono molto più restrittivi dell'Italia. Diciamo che l'Europa non ha più degli standard comuni perché tra i 28 paesi che ne fanno parte ci sono situazioni fortemente differenziate, ma questo è un problema in più perché impedisce all'Europa di adottare politiche unitarie e coerenti in materia di asilo e immigrazione, quindi alla fine i singoli paesi rimangono abbastanza abbandonati, a parte delle somme che possono essere stanziate in momenti particolari, come i 30 milioni di euro che Barroso questa mattina ha annunciato da Lampedusa saranno dati all'Italia per fare fronte a questa emergenza. Professore, ma io ho visto recentemente, mi pare, o ieri o l'altro ieri, una vignetta del famoso vignettista Staino, no? Il vignettista quello che spesso sta sull'unità. C'era una ragazza, una bambina che parlava con un migrante africano e gli diceva: ma perché vi mettete in mare se sapete che forse morirete? E lui rispondeva: per il forse. Cioè al di là delle lacrime di coccodrillo, insomma, spesso che abbiamo visto in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, sì. Quale pensa, non sto chiedendo all'avvocato né al docente di diritto, quanto proprio anche per sua esperienza personale e anche come persona, cosa pensa che noi europei, noi italiani, ma noi europei anche, potremmo concretamente fare al di là, ripeto, delle lacrime di coccodrillo? Innanzitutto ci sono i campi profughi nei quali queste persone sono riversate fuggendo dalla Siria, che sono stracolmi e sono abbandonati senza contributi da parte dell'Europa. Poi ci sono molte crisi che nascono e si alimentano con il commercio di armi che l'Europa vende a tutti i paesi che sono in guerra. Se fosse bloccato questo commercio di armi, qualche crisi forse sarebbe meno dannosa e produrrebbe meno profughi. Quindi prima intervenire sulle cause grosse, sulle cause diciamo di spinta, sulle cause che creano queste crisi nei paesi come la Siria, e anche recentemente abbiamo visto la Libia e quello che è successo dopo l'intervento armato, ma anche prima in Libia c'erano problemi. Quindi c'è un ruolo diciamo di politica estera che l'Europa sicuramente non riesce ad assolvere, e poi c'è un problema appunto complessivo di capacità di accoglienza di un numero ridotto di persone, non sono tantissime, che arrivano e che avrebbero diritto, in base agli standard anche previsti dalle direttive comunitarie, a una certa soglia di accoglienza, e che invece molto spesso trovano una situazione di abbandono e di non riconoscimento come persone. Forse se si conoscesse bene quello che queste persone si lasciano alle spalle, se si conoscesse bene quello che succede in Siria, in Eritrea, in Etiopia, in Libia, ai danni di queste persone che arrivano, l'atteggiamento anche dell'opinione pubblica potrebbe essere un po' diverso. Professore, io la ringrazio per la nostra chiacchierata e per averci un pochino illuminato, insomma, nella giungla di leggi e di che cosa poi succede veramente a queste persone che noi spesso guardiamo nei telegiornali, e insomma invece è, come dire, carne viva che sta nel nostro paese, e può interagire anche con noi. Quindi la ringrazio per questo. Grazie a voi anche per il lavoro di diffusione di queste informazioni diciamo nell'opinione pubblica, perché il vero problema al di là delle leggi purtroppo è una opinione pubblica che diventa, anche per effetti della crisi, sempre più pregiudizialmente contraria rispetto alle ragioni e ai diritti umani delle persone che arrivano. Grazie ancora, professore. Grazie a voi, buona serata. E ringraziamo il professor paleologo per essere stato nostro ospite. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Luogo Comune. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a visitare il sito www.radiocittaaperta.it per essere sempre aggiornati su tutte le iniziative della radio e per sostenere Non esistono più le mezze stazioni, la campagna di raccolta fondi a favore di questa bella realtà romana. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta e ci sono io che parlo in radio, o su Twitter digitando @luogoc, oppure scriveteci sulla nostra mail luogocomune.radio@gmail.com. Da Luogo Comune è tutto, l'appuntamento è per domenica prossima alle ore 10.45, sempre sugli 88.9 di Radio Città Aperta. Da Valentino De Luca, una buona giornata e una buona domenica. Ciao!